passato un altro lungo inverno, sono ancora qui, in equilibrio, sul limite. È passato un altro lungo inverno, sono sempre qui ad inventare degli attimi. Passato un altro lungo inverno davanti ai miei occhi, su queste mie mani non ancora stanche di suonare. È passato un altro lungo inverno, sono sempre qui ad inventare degli attimi. È passato un altro lungo inverno, sono ancora qui.